Parte terza, il volantino giallo. La donna si svegliò di soprassalto. Ebbe di nuovo paura, come 2 giorni prima. 2 giorni prima era stato di mattina presto. Faceva ancora buio, ma era già mattina quando erano sbattute le portiere sotto le finestre, in quella via solitamente tanto calma. Al suo fianco Kurt dormiva. Frida Neumann aveva guardato le lancette luminose del quadrante posato sulla valigia che le serviva da comodino. Segnavano le 6:15. Con gli occhi spalancati era rimasta immobile e aveva ritrovato un respiro normale solo dopo aver sentito ripartire la macchina. Solo allora si era presa in giro. Erano in Francia. Ormai era tempo che si abituasse. In Francia, quando sbattono le portiere, non vuol dire che ti vengono a prendere. Vuol dire che la gente fa quello che le piace, dove le piace, allora che le piace. Ecco. Che cosa le avrebbe risposto Kurt ancora una volta, come faceva da 2 mesi, e lei aveva deciso di non dirgli niente di quel terrore del primo mattino. Ma quella notte ricominciava, e si era veramente nel cuore della notte, le 2:20 segnavano le lancette. C'era stato 3 volte lo sbattere delle portiere, passi sul marciapiede, poi uno squillo di campanello alla porta che si era richiusa violentemente, e la macchina non era partita, non era ripartita. Frida si alzò nell'oscurità, uscì di camera senza rumore, entrò nell'ingresso e senza accendere incollò l'orecchio alla porta. Qualcuno saliva per la scala principale, a passi lenti, soffocati dallo spessore della guida. Salivano anche dalle scale di servizio, un solo passo, un po' più rapido, ma che risuonava terribilmente nella gabbia metallica. Ora era sicura che avrebbero bussato alle 2 porte contemporaneamente. Ma i passi sonori seguitarono la loro ascensione, i passi felpati la loro. Sentì una voce femminile sospirare, che stanchezza! Poi la porta del terzo piano che si richiudeva. Solo a quel punto Frida Neumann si rese conto di aver capito le parole della donna. Era Yiddish! La fece talmente ridere che fu sul punto di precipitarsi in camera per svegliare Kurt e farlo ridere con lei. Poi decise che sarebbe stata un'eccellente storia per la colazione. Accese, andò in cucina a bere un bicchiere d'acqua e ascoltò in silenzio. Non si muoveva niente nelle altre stanze dell'appartamento, neanche i bambini si erano svegliati. Non ci sono che io a vegliare, io che sono la folle di casa. Sono la folle di casa, canticchiò allegramente dentro di sé sull'aria della sonatina di Mozart di cui si faceva grande uso in famiglia. «Sono la folle dell'accampamento», mormorò senza musica, attraversando l'ex salotto dei Les Gentils dove dormivano i 2 maggiori nei sacchi a pelo. «Se restiamo, si dovrà comprare delle reti», si disse tornando a sdraiarsi con cautela accanto a Kurt, sul grande materasso posato sul pavimento. «Reti e pianoforti. I 2 pianoforti noleggiati erano pessimi e costavano troppo cari». Ebbe di nuovo voglia di ridere. Era la zia Anna che diceva sempre «Sì, violinista, mai arpista e soprattutto non pianista. Violinista o flautista, perfino nei treni puoi suonare». La zia Anna era proprio la sola che parlasse yiddish in famiglia. Agli altri non piaceva. Tedesco e inglese. Molto distinto l'inglese. Peccato che non le avessero fatto imparare il francese quando era piccola. Le avrebbe fatto proprio comodo adesso. Se si restava. Non aveva una gran voglia di restare, comunque non di restare lì, non in quel quartiere giardino, non in quella casa dove sembrava che nessuno si fosse accorto della loro presenza, a parte la portinaia che non rispondeva mai al buongiorno signora, balbettato dai 4 bambini. «Non sono curiosi questi francesi», si disse Frida, per non chiedersi come se la cavino 6 persone che hanno traslocato senza mobili, non parlano francese, ma fanno salire 2 pianoforti 3 giorni dopo il loro arrivo. Non curiosi, molto discreti, totalmente indifferenti o volontariamente ignoranti questi francesi. Eppure, per quanto fosse la folle di casa, non era folle. La signora del terzo piano, poco fa, era proprio in Yiddish che aveva sospirato «Che stanchezza!». Doveva ben saperlo lei che non erano turisti quegli strimpellatori di piano. «Quei maledetti non mi ci ribeccano più», disse Luca baciando Gildes che l'aspettava sul pianerottolo del 5° piano. «Con questo ho lasciato la macchina fuori, tieni, non dirai che non ho pensato a te, e le tese una scatola con lo stemma di 1000 maglie. Ho pensato a te e sono stato bravo, perché quanto a un funerale tranquillo a Troyes, figurati, quelli mi hanno fatto recitare Rouletabille e il rapimento della Begum. Parlava sottovoce nel corridoio. Entrarono in camera e ancora prima di sbottonare il colletto del giubbotto, Lucas cominciò a slacciare le fibbie dei gambaletti e le stringhe degli stivaletti. Porca miseria, che sollievo! Sbuffò prima di iniziare il racconto. Quello della caccia alla Maddi, che era cominciata all'uscita della messa, quando i padroni si erano accorti che non la vedevano più. Sarà al cimitero? No? Allora dagli con i su e giù, nella cattedrale si riprende a cercare dappertutto, perfino nei confessionali e in sacrestia, e ridai che si torna in albergo, tante volte si fosse sentita male, e poi si torna alla casa mortuaria e si ripassa dall'albergo, e poi si fanno gli ospedali per finire col commissario di polizia e si decide di rimanere a dormire lì senza neanche chiederti se ti va bene. Allora, sotto con la farmacia. Avete spazzolini da denti, per favore? Dentifricio? La marca? No, non me l'hanno detta. Dottor Pierre? E vada per il dottor Pierre. In ogni modo, digrigna i denti, la padrona, non le passa la rabbia. Ha decretato che aspetterà lì, per quel poco che si può capire, perché non aprono il becco in macchina. A parte che lei ha detto, quella sgualdrinella e quel piccolo ruffiano non me la faranno dietro le spalle. Sarebbe troppo facile. Li voglio qui, tutti e due, qui. Risultato si resta. A dividere una camera di corrieri, come la chiamano loro, con quello stronzo di Hubert. E l'indomani stessa storia, solo che si va alla stazione ad aspettare i treni che arrivano da Parigi. Nada, nessuno. Allora, spedizione in piena campagna per trovare una locanda che la conosce il portiere dell'albergo. Difficilissima da scovare. Prova ne sia che si gira a vuoto per 2 ore. Pare che sia lì che vanno i grossi papaveri della maglieria per le loro scappatelle. E la Maddi conoscerebbe il posto e ci si sarebbe rintanata con il Grandi per vedere il notaio da soli. Questo lo sa Hubert per via del suo padrone che chiacchiera in macchina. Risultato allo scopodromo col cavolo che ci sono. E via, si riparte per i campi di Barbabietole, che fa già buio, e ridai con la casa mortuaria dove le cose non sono brillanti, che il vecchio continua a fare il muto. Quanto alla Maddi, credo proprio che sia morta e l'abbiano sotterrata oggi, disse Gildese, che non aveva osato interrompere il suo amante. Questi la guardò interdetto. Sotterrata? Oggi? È venuta Ginetta a lasciare un biglietto per la signora Victoria. Eravate già per la strada. L'ha dato ad Armel, che l'ha messo sul guanciale perché la padrona lo trovi senza fallo. Beh, merda, disse Luca. Un ruggito e dei lunghi silenzi ruppero il silenzio proprio nel momento in cui Frida Neumann si stava riaddormentando. Anche loro però hanno degli incubi, i francesi, si disse. E si strinse contro Kurt che non si era mosso. Non era un incubo al terzo piano, era l'orrore. A occhi sgranati Nicole aveva fatto conoscenza con l'infelicità, la vera, l'irreversibile, l'irreparabile infelicità. Travolto, disarmato, Janek contemplava da lontano quella folle afona che rifiutava di lasciarsi avvicinare. Accovacciata per terra ai piedi del letto come un mucchietto di stracci neri, aveva dato prova di un'energia insospettabile quando lui aveva tentato di prenderla tra le braccia e quando aveva voluto parlarle, aveva coperto la sua voce con rantoli così rauchi e profondi che pareva uscissero da una soffieria. Poi di botto si era drizzata e con 2 pugni chiusi si era messa a martellare il muro della loro camera come un prigioniero quello della cella. Allora Janek radunò le forze e il suo paio di schiaffi fu talmente violento che Nicole crollò inanimata sul letto. Lo svenimento durò qualche minuto. Chino sulle palpebre chiuse della moglie, Janek si chiedeva se fosse stato il dispetto, la rabbia o il dolore a renderla folle. Appena avesse riaperto gli occhi l'avrebbe saputo. Li riaprì e riconobbe quel lampo, il lampo di tenerezza e di disperazione che fino a quel momento 2 sole persone al mondo avevano saputo accendere in quello sguardo, sempre superbamente vittorioso agli occhi di tutti gli altri, il vecchio Zetkin, suo padre, e lui, Janek, suo marito. Sarebbero stati 3 ormai. Era proprio di dolore che era folle. Si sentì vagamente rassicurato e singolarmente geloso. Alla stessa ora Alex cercava invano di addormentarsi. «Senza quella fesseria di fabbrica di bici non ci penserei così», disse ad alta voce. Sapeva bene che si stava mentendo. Riaccese la lampada sul comodino e contemporaneamente tirò fuori una sigaretta dal pacchetto posato sul portacenere. «Non durerà mica così per tutte le notti della mia vita», borbottò sfregando un fiammifero. Ciò nonostante si alzò e, come faceva da 2 giorni, si diresse verso il cassetto dove aveva riposto la lettera di Maddy. Ormai la conosceva quasi a memoria quella lettera, a forza di rileggerla in modi tanto diversi. La prima volta l'aveva scorsa più che letta e, convinto che fosse stata pensata, scritta e minuziosamente impostata per farlo arrivare in tempo, si era precipitato incredulo e quasi ridacchiando in aiuto di qualcuno che gridava «Al lupo!» e che gliel'avrebbe pagata. La seconda volta fu quando era tornato dall'obitorio, dove nel frastuono del metro scoperto aveva burocraticamente riconosciuto il viso della morta, come l'aveva burocraticamente pregato di fare un impiegato prima di abbassare la coperta. Quella seconda volta l'aveva letta come meritava di essere letta, come dovevano essere letti un addio, un testamento che bisognava rispettare. E poi l'aveva riletta e riletta ancora per cercare di forzare il segreto nascosto dietro quella frasetta che lei probabilmente aveva creduto limpidissima mentre la scriveva, ma della quale non aveva capito niente leggendola e continuava a non capire niente rileggendola. Te lo immagini come parrebbe serio nel momento in cui tutto sta per essere tuo? E come da 2 giorni tornava l'ultima immagine di Maddy viva, Maddy in nero nello specchio molato, tra Nicole e Agnes, Maddy seria, un po' cinica, un po' colpevole, che lo guardava andarsene. Verso che cosa? Verso chi si era immaginata che fosse in partenza con tanta fretta da non avere neanche il tempo di voltarsi verso di lei? Verso lei sola, quella frazione di secondo necessaria per un arrivederci a lei sola, prima di scomparire dalla vista di tutte e tre. Tutte e tre, saldate nella sua memoria, indissociabili al momento del flagrante delitto e verso le quali non si era voltato per un arrivederci, perché non aveva voglia di rivederle, mai. Allora, nello specchio, lei doveva aver guardato la schiena di lui che si allontanava e lui non aveva guardato il viso di lei e non avrebbe mai saputo che viso avesse mentre lo guardava uscire dalla sua vita. Ripiegò la lettera, la mise nel cassetto e tornò a letto. Schiacciò la sua 7ª cicca e spense la lampada, che riaccese quasi subito. Si rialzò per prendere il carboncino rimasto sulla tavola da disegno e sul pacchetto di gitan gialle annotò «Chiamare assolutamente Dubatò», poi sotto «Pensare Zibellino Ginette», e spense definitivamente. Alex fissava il soffitto mentre Dubatò Ripois si ascoltava parlare nel suo grande studio a forma di rotonda in Avenue McMahon. Il soffitto era truccato, così abilmente truccato per fare da cassa di risonanza che bisognava essere dentro le segrete cose per rendersene conto. Alex non guardava la truccatura, la conosceva, era stato lui a concepirla, farla costruire, sistemare, verniciare e armonizzare con il rivestimento di legno chiaro che faceva da scrigno degli effetti vocali dell'illustre tenore del foro parigino. Alex fissava il soffitto perché non voleva che Dubatò Ripois notasse le lacrime che gli riempivano gli occhi. Gli erano sgorgate brutalmente, fin dalle prime parole del discorso che gli rivelava quella che Dubatò Ripois aveva definito la sua pazzesca fortuna. «Eh sì, mio caro Grandi, è tutto suo. I muri, i fondi, le scorte, le chiavi, tutto. Quanto a questo si può dire che lei aveva fatto colpo, si potrebbe dire un colpo gobbo», aveva concluso Dubatò con un sorrisetto eloquente circa l'ammirato disprezzo che nutriva per il giovane beneficiario dei tardivi ed estremi capricci della vecchia signora Leblanc. «È tutto suo», aveva detto Dubatò. Ecco cos'altro voleva dire la breve frase di Maddy. «Nient'altro che i muri, le scorte e le chiavi. Che orrore! Che disgrazia, che tristezza, che derisione! C'era proprio da piangere. Ma se vede una lacrima, una sola lacrima, se muovo la mano per asciugarmi gli occhi, se pronuncio una frase con la voce rotta, questo stronzo crederà che gli stia recitando la scena dell'emozione di quello che vince la lotteria nazionale. Non devo piangere, non devo piangere, non devo piangere, si diceva Alex fissando il soffitto. Ci fu un silenzio piuttosto lungo. Sta contando le mosche o i milioni? Si spazientì Dubattò Ripoà. Non conto niente perché non voglio niente, rispose Alex, quando fu sicuro di aver ritrovato la voce e lo sguardo di tutti i giorni. Niente, niente di niente, ripeté piantando gli occhi asciutti in quelli di Dubattò Ripoà ancora scintillanti per l'ultima battuta. Come sarebbe a dire niente? Fece Dubattò Ripoà esterrefatto. Niente, niente, assolutamente niente, oppure tutto se preferisce, rifiuto tutto. Ecco, questo è tutto, disse Alex, che imparava di nuovo a divertirsi. Dubattò Ripoà, con gli occhi fissi in quelli di Alex, cercava di valutare la veridicità di quello che aveva sentito. Sta scherzando, mio caro Grandi? Finì per balbettare a mezza voce per una volta. Alex gli sorrise tristemente. Ne ho forse l'aria, avvocato Dubattò? No, ammise Dubattò Ripoà. No, ma allora che facciamo? Noi? Noi non facciamo un bel niente, mio caro avvocato. Sarà lei a fare. Lei informerà i suoi clienti e amici che il carpitore, l'usurpatore, il rapinatore, l'ex giovane amante della defunta giovane amica del vecchio vedovo della vecchia e rimpianta donatrice, si scusa per il disturbo arrecato, di cui solo oggi misura l'ampiezza, e li prega di voler recuperare un bene che non potrebbe prendersi. Ecco quello che lei farà, mio caro avvocato, e io ora me ne vado. Alex si era alzato alla fine della tirata, che era riuscito a recitare in tono calmissimo. Dubattò Ripoà non si era mosso. «Si sieda», chiese quasi umilmente. Alex si risedette. «Se lei rifiuta, ci ritroviamo con una successione vacante». Dubattò aveva ritrovato la sua bella voce. «Prego», fece Alex. «Sto parlando di successione vacante, maschere bergamaschi, senza successori, che triste fine, non le pare?» «Ma non vedo», disse Alex, pur vedendo farandole di crinoline, di pepli, di moschettieri, vacanti, di teste e corpi pietosamente erranti tra paesaggi lunari. «No, non vedo affatto», ripeté. «Le spiego», declamò Dubattò Ripoà come se si rivolgesse a un bambino. «Ah, oh, ora si mette a parlare con me», pensò Alex. «Le spiego», riprese Dubattò Ripoà. «I miei clienti e amici, i Leblanc Ziegler, per essere precisi, non accetteranno la sua generosa offerta, davanti alla quale io stesso, tra l'altro, mi levo tanto di cappello. Saranno commossi, me ne faccio garante, ma non accetteranno, e non accetteranno perché non hanno nessun interesse a gestire quella che Liliane e Roger Ziegler hanno sempre considerato come una costosa burattinata, burattinata imputabile ai capricci congiunti e tuttavia divergenti della vecchia coppia Leblanc. Capricci scusabili indubbiamente perché originati dal disordine amoroso che lei menzionava poc'anzi, ma pur sempre capricci perché, in fin dei conti, è per soddisfare i propri capricci che Augustin Leblanc cedeva ai capricci della signorina Varga, ed è per far piacere a Augustin Leblanc che Marie-Jean Leblanc si è candidamente permessa il capriccio di credersi una mecenate. Perfetto, non parliamone più, giacché oggi, per un doloroso capriccio della sorte, hanno entrambe lasciato questo mondo. Resta quel povero Augustin Leblanc, o meglio quel poco che ne resta. In parole povere, i miei clienti Ziegler, e in particolare Roger Ziegler, che ormai deve rispondere al posto del suocero divenuto incapace del buon funzionamento di Tricotin e di Labour Confort, e quando dico il buon funzionamento è un'immagine audace per due fabbriche che i capricci di 200 operai fanno claudicare un giorno su due. Roger Ziegler, troppo occupato a Femina Prestige, dove i senza patria cominciano a rivendicare, sullo stesso tono dei burini di vecchio ceppo nativi delle pianure di Brie, i quali burini dovrebbero peraltro essere ben felici d'aver potuto cambiare i loro camiciotti di cafoni con delle tute e di far funzionare la macchina, anziché dover mungere le mucche. «Se venisse a quelle vacanze», lo interruppe Alex. «Quali vacanze? Le sto spiegando». «Lei mi sta spiegando le tristi vicissitudini degli Ziegler, le preoccupazioni degli Ziegler. Interessantissimo, ma mi doveva spiegare perché maschere, questa costosa burattinata, sarebbe immancabilmente caduta in un'irreparabile vacanza». All'ignorante spettò una magistrale lezione sulla successione vacante e le sue tragiche conseguenze, e cioè che un'eredità rifiutata dagli uni e ripudiata dagli altri diventa vacante e conseguentemente cade nelle mani dello Stato. Ma per quanto dottamente blaterasse Jean Gaëtan du Bateau-Ripois, Alex seguitava a vedere crinoline, pepli e moschettieri sempre vacanti, ma presi ora nelle reti di cacciatori in divisa, cancellieri, uscieri, doganieri e banditori all'asta, presi, razziati, valutati, etichettati, prima di essere aggiudicati a rapaci indifferenti che li avrebbero portati lontano da tutti quelli che li amavano, quelli che li avevano saputi disegnare, cucire e portare. Lontani dai burattini, pensava Alex. Che cosa hanno contro i burattini? Gli Ziegler chiese. Non sono del loro mondo e costano troppo cari, rispose senza esitare Du Bateau-Ripois. Troppo, troppo costosi. Come le ballerine, insiste Alex. Esattamente, fece Du Bateau sorridendo. E nel loro mondo non si sono mai visti i figli legittimi mantenere i bastardi che i padri hanno avuto dalle loro ballerine, specialmente quando sono morte e già sepolte, mi hanno detto, aggiunse Du Bateau con un tono di afflitta riprovazione. Alex non disse niente. Avrebbe potuto avvertirci, mio caro Alex. No, rispose Alex, che già si stava alzando. Du Bateau non insisté e si alzò a sua volta. Allora questo bastardo lo adotta o lo lascia all'orfanatrofio? Il notaio Parbeau di Troyes aspetta la sua visita e le sue istruzioni. Non lo so più, mormorò Alex. Rifletta, mio caro Grandi, rifletta. E quando andrà a Troyes, giacché dovrà ben andarci un giorno o l'altro, non manchi. La prego di presentarsi alla Bonne Chanson. La Bonne Chanson? Chiese Alex già sulla porta. È il nome della casa dove fu atteso, sperato tanto a lungo dalla povera Marie-Jeanne. L'ora del tè fumante e dei libri chiusi. Fantasticherie sotto la lampada, il dito contro la tempia, lo sa bene. Lo so. Lo so benissimo, quel bravo Verlaine. Per il notaio Coso, insomma, per il notaio di Troyes, le telefonerò, bisogna che rifletta, dichiarò Alex aprendo la porta. Non aspetti troppo a lungo. Lo Stato non è molto paziente ed è ghiotto, concluse Du Bateau-Ripois sulla soglia. La bella voce dell'avvocato aveva perso molto del suo vibrato. Avrei dovuto soffittargli anche il corridoio, già che c'ero, si disse Alex, infilandosi l'impermeabile che gli porgeva un maggiordomo in gilet a righe nere e gialle. Fu grazie al cinema che Alex trovò la soluzione a tutti i problemi che gli poneva l'assurdità della situazione. Al cinema e a un ricordo che risaliva ad appena 2 settimane prima. Non erano che una ventina quella sera nel cinema dove si dava Le Crime de Monsieur Lange. Ce l'aveva trascinato Rodriguez. Lui rivedeva il film per la quarta volta nello spazio di 2 giorni, sia per Jean Renoir che l'aveva fatto, che per Florel, Jules Berry, René Lefebvre, Sylvia Bataille e tutti gli sconosciuti, tranne che per i frequentatori di Cher Ami, che recitavano il dialogo. «Che dialogo! Chiudi il becco!» aveva dovuto bisbigliare Alex a Rodriguez, esasperato dal sentirsi recitare le battute prima degli attori. Le parole buffe e tristi della vita vera, e la canzone della Belle Étoile «Au jour le jour, à la nuit». Il dialogo e le parole erano appunto di quel tizio spassoso che tutti chiamavano Jacques, quello che aveva raccontato la storia del gesso viola. «Facciamo una cooperativa», dicevano nel film i simpatici protagonisti, e la facevano, la loro cooperativa, e funzionava, e loro cantavano. C'est la nuit de Noël, la neige tombe à gros flocons. E quel tipetto, ameno, che si vedeva sempre da Cher Ami col suo violoncello, nel film lo si vedeva percorrere le vie di Parigi per distribuire il giornale che erano riusciti a creare in cooperativa. Alex era rimasto a 2 spettacoli di seguito e Rodriguez, fierissimo di condividere quel piacere con il compagno, aveva rivisto il film per la 5ª volta. Era stato 15 giorni prima. Da allora Le Crime de Monsieur Lange non lo davano più da nessuna parte. Alex credeva di non ricordarsi che le canzoni, le belle lavandaie, Jules Berry che faceva il finto parroco, la camicetta d'organza di Florel e la cravatta a farfalla di Duhamel, la volpe di Sylvia Bataille e il costume da squaw di Nadia Sibirskaya. Pensava di aver dimenticato la leggenda della cooperativa. Gli tornò in mente. Gli tornò in mente nel bel mezzo dell'Avenue McMahon, che risaliva pensoso dopo aver lasciato du Bateau Ripois. E invece di prendere all'Étoile il metrò per la stazione Pyrénées, se ne tornò indietro. «Accetto!» disse, come avrebbe detto Eureka, dopo aver respinto il maggiordomo che lo voleva annunciare. «Accetto! E prendo tutti con me, gli Ziegler, i Jean, le operaie, i cottimisti, le sarte. Ci accettiamo tutti insieme e mettiamo su una cooperativa». Era tutto trafelato dopo aver salito i tre piani a piedi. «Prendo nota che lei accetta, mio caro Grandi, e me ne rallegro per lei», disse du Bateau, che aveva ritrovato la sua bella voce. «Dal momento che lei accetta, lei è il padrone e fa quello che vuole, non le pare? Ma nelle circostanze attuali dubito molto che Femina Prestige, Tricotin e la Bourconfort siano di umore cooperativo o anche semplicemente cooperante. La grande corporazione padroni operai, mano nella mano, con i tempi che corrono, su via». «Comunque trasmetterò». E du Bateau Ripois non ritenne necessario alzarsi per riaccompagnare una seconda volta il giovane illuminato. Alex non dovette recarsi a Troyes. Il notaio Parbo gli fece consegnare l'atto di proprietà dal suo giovane di studio, che ebbe così l'occasione di visitare Parigi per la prima volta in vita sua. Alex non conobbe quindi mai il gran parco né la vena fatua della Bonne Chanson. Dovette in compenso venire a conoscenza del dare e dell'avere di maschere bergamaschi e scoprire di conseguenza, una volta tradotto il gergo notarile, che certe pezze giustificative del bilancio sfioravano l'abuso di beni sociali, per non dire l'abuso di fiducia caratterizzato. Era evidente che i ritocchi col gesso violetto di Victoria Jean si cancellavano più facilmente delle fatture non saldate ai fornitori abituali. La lista era lunga e ripetitiva, comprendeva parrucchieri, profumieri, drogherie di lusso, fioristi, un garage a Neuilly e la compagnia dei vagoni letto. Faceva parte della colonna «Spese di rappresentanza», scritta nero su bianco con un inchiostro assolutamente non simpatico. Poi Alex fu ben costretto ad ammettere che la vita non era il cinema. Al cinema i protagonisti del crime di Monsieur Lange mettevano su la loro cooperativa con due primi piani e tre movimenti di cinepresa. Nella vita di Alex ci vollero un po' più di 3 settimane, esattamente 25 giorni. 25 giorni per convincere, ingaggiare, riconvincere coloro per i quali l'avventura aveva poche probabilità di vita. 25 giorni per sterpare il ginepraio del diritto delle società, in confronto al quale il gergo del giovane di studio del notaio Parbo era limpido come un sonetto di Ronsard. A sterpare fu la signorina Anita. Con grande sorpresa di Alex, comparve una mattina in viale Chateaubriand, senza preavviso, volontaria per la Copé. Discreta come era sempre stata, non fornì spiegazioni sul suo mutato orientamento. «Ho lasciato Femina Prestige. Di amministrazione me ne intendo», annunciò semplicemente con l'abituale discrezione. Alex non le chiese perché abbandonasse dei padroni seri che serviva da tanto tempo per mettersi al servizio dei loro avventurosi bastardi. Fu quindi lei a redigere gli statuti della nuova società, fu sempre lei a confermare per iscritto ai cooperatori e alle cooperatrici la loro cointeressenza agli utili, se utili vi fossero stati, oltre a uno stipendio garantito. Le lettere della signorina Anita erano semplici e chiare. Non dimenticava che si stava rivolgendo a gente più abile nel cucire che nel leggere, più timorata che intraprendente. Aveva provato un vivo piacere nello scriverle e un piacere ancor più vivo nel firmarle con il suo nome per esteso, Anita Bourgoin, ben leggibile. Che sollievo, che cambiamento! Si era lasciata sfuggire in un sospiro beato, apponendo la sua firma ben chiara sulla prima lettera. Alex non aveva risposto nulla, aveva sorriso, tendendole il tampone assorbente. In una frase gli aveva raccontato la storia della sua vita. Le lettere erano state impostate tutte insieme, le risposte si erano scaglionate a seconda delle esitazioni suscitate dalla sorpresa o dall'incredulità. Sulle 27 spedite, solo 3 rimasero senza risposta. Le 24 risposte positive avevano tutte lo stesso aspetto, dal momento che la signorina Anita aveva pensato ad includere alle sue lettere un foglietto già predisposto. Bastava quindi sottoscrivere con il proprio nome un testo di accettazione da infilare in una busta già compilata e affrancata. Le due prime risposte portavano il timbro del 20° distretto. L'invio del tagliando di risposta era solo in omaggio alle regole. In Rue de la Mar non si era aspettata la circolare della signorina Anita per aderire alla cooperativa. Sonia e Olga erano state le prime confidenti di Alex, naturalmente dopo Jean Gaëtan du Bateau-Ripois, ammesso che Alex si fosse confidato quando era spuntato all'improvviso gridando con voce trafelata «Accetto!» sotto il soffitto truccato dell'Avenue McMahon. Trafelato lo era anche arrivando da Sonia e Olga, trafelato per aver sceso la Rue de la Mar così in fretta, ma molto più calmo che risalendo l'Avenue McMahon un'ora prima. Calmo, come Ghisolne e Le Crime de Monsieur Lange, perché Sonia e Olga somigliavano ai protagonisti del film, non du Bateau-Ripois. Allora aveva raccontato tutto, tutto, fin dall'inizio, lentamente e con parole semplici per una volta, senza le metafore e le omissioni che erano andati a finire male l'ultima volta. Loro avevano ascoltato, costringendolo a ripetere quando non capivano e a tornare indietro quando andava troppo veloce. Avevano ascoltato di Maddy a Saint-Étienne e di Maddy a Parigi, di Maddy e Tintin, di Tintin e Femina Prestige e Maschere e la signora Tintin e la morte, i morti, le morte, l'obitorio e l'eredità e la successione vacante e Le Crime de Monsieur Lange e la sua cooperativa. «Poverina», aveva detto Sonia, cui era rimasta impressa soprattutto Maddy. «Peccato che non l'abbiamo mai conosciuta», aveva detto Olga guardando prima verso la cornice dei nostri, poi verso il cassetto della macchina da cucire. «Non avrebbe dovuto lasciarla», aveva aggiunto guardando di nuovo Alex. «Ma io non l'amavo più», aveva mormorato tristemente Alex. «Non l'avrà capito. Capita spesso con lei», aveva risposto Sonia andando a versare l'acqua nella piccola caffettiera. «Capita con tutti», aveva concluso Alex. Poi aveva spiegato la cooperativa e loro avevano capito tutto, salvo una cosa. Perché una cooperativa? «Perché più nessuno si ritrovi nella casa di partenza», aveva risposto Alex, colto alla sprovvista da quella domanda che ancora non si era posto. A quel punto avevano suonato alla porta. «Questo è Barschi», aveva detto Sonia. Era Barschi, aveva un affare fantastico per Sonia, Olga e Grandi, due tizi che aveva incontrato tramite un amico, il più gran truccatore della più grande diva del cinema. Non poteva dirne il nome, ma i due tizi erano fratelli, dei giovani, stavano preparando un film che sarebbe stato girato per le strade, un po' in una camera, tra degli operai, in una fabbrica in riva al mare. La diva aveva quasi detto di sì e il truccatore e sua moglie, che era la più grande vestiarista del cinema, le facevano fare tutto quello che volevano, sicché per i costumi... «Grazie, Isidore», aveva risposto gentilmente Alex. «Ne parleremo domani, io e i miei soci». «Ah, ha dei nuovi soci?» aveva chiesto Barschi, che era roso dalla curiosità da quando il cartoncino di Maschere Bergamaschi era scomparso dalla porta di Casa Bonnet. «Ora siamo cooperativi, signor Barschi», aveva precisato Sonia con la distaccata sicurezza di un'addetta all'amministrazione. «Assolutamente», aveva confermato Olga guardando Alex che aveva sorriso. Anche Barschi aveva sorriso, un po' a caso. «Ci mettiamo in cooperativa, mio caro Isidore, in cooperativa, a lavorare in gruppo, se vuole». «In kibbutz, insomma», aveva esclamato Barschi prima di mettersi a ridere, «come il nipote degli Stern, il pazzo del lago di Tiberiade, e pensate che funzionerà?» «Faremo del nostro meglio, mio caro Isidore», aveva risposto Alex. «E la granduchessa Victoria Roginska, anche lei farà la kibbutznica?» aveva chiesto Barschi con l'aria più innocente del mondo. Sonia e Olga si erano voltate verso Alex. C'era voluto Barschi per far rispuntare la grande ombra paventata e fare la sola domanda che fino a quel momento non avevano osato affrontare. «Lo sapremo domani, ma mi stupirebbe molto», aveva detto Alex, che si era ricordato il «trasmetterò» di du Bateau-Ripois. «Domani, al più tardi», aveva ripetuto per fugare l'angoscia che improvvisamente aveva visto rinascere negli occhi di Sonia e Olga. «Ma come fa a conoscere tanto bene la signora Victoria Jean, mio caro Isidore?» aveva domandato Alex dopo un breve silenzio. «Gromov e io siamo stati in affari con lei tempo fa», aveva risposto Barschi, sorridendo misteriosamente. «Allora, per quei miei due amici del cinema, che cosa gli dico?» «Quello che ho detto poco fa, mio caro Isidore. Come si chiamano i suoi due amici?» Non le posso ancora dire i loro nomi, ma potrò dirglieli domani senza fallo, aveva detto Barsky. Ebbene, ce li dirà domani. Domani sapremo tutto su tutto. A domani, mio caro Isidor. E Alex aveva riaccompagnato Barsky fino alla porta.